una buonasera, Max Macchia in compagnia vostra di 451 frammenti sonori nello specifico, che questa sera appunto vi allieterà, perlomeno spero, insomma, farò del mio peggio per allietarvi. E 451 che riprende il discorso avviato già la settimana scorsa, legato alla California, California post-punk. Avevo promesso una serie di trasmissioni su quel periodo storico eccezionale, forse anche poco conosciuto, con anche appunto quel portato storico così ancora nascosto, così ancora dentro quel grande caleidoscopio che sono le musiche californiane. La scorsa volta un po' accennavo tra Frank Zappa, Capitan Beefheart, fino ad arrivare ai Residents e ai nostri californiani più vicini temporalmente, quelli legati alla noise, cenavo Skaters. Per quanto riguarda questa terra decisamente fiorente di formazioni, progetti, musicalità altre e alterate, se non drogate, drogatissime a volte, come se ne ho anche le psichedelie, buona parte insomma nate appunto in quelle zone californiane. I Remember California cantavano un certo gruppo che mi pare si chiamasse Rapid Eyes Movement. La California è quella del post-punk, quella della California Uber Alles, dei Dead Kennedys, ed è una seconda parte dedicata a Los Angeles, viva Los Angeles 2, e la prima parte, così con questa citazione anche, e la seconda poi tra l'altro proprio ripresa a pie pari quella citazione, ovvero Viva Los Angeles compilation che usciva addirittura in Italia alla fine degli anni 80, primi anni 90, perlomeno insomma su per giù siamo lì tra il primo e il secondo volume. Quella insomma è un periodo molto importante per la trance music losangelina, come dicevo, e come insomma sto anche sottolineando, forse poco conosciuta, forse anche volutamente poco conosciuta per le enormi diramazioni che ha avuto in termini soprattutto di portato sonoro, di attitudini. La scorsa volta abbiamo ascoltato formazioni dentro il rock, Psycom addirittura poi diventarono Jane Addiction, abbiamo sentito Savage Republic con riferimenti tanto post-punk quanto antecedenti certo rock desertico, abbiamo ascoltato dei veri e propri performer come Robert Kendall, anzi Randall, perdonatevi, e abbiamo ascoltato anche i primi progetti di Produce, che è stato insieme al personaggio insomma che guidò e i Savage Republic, visto che si sono riformati ma non c'è più lo storico combo e soprattutto lo storico tra virgolette leader dei Savage Republic, insieme a lui di fatto è Produce costituì se non vogliamo chiamarlo un movimento, la scena della trance music, e quindi iniziò insomma a rendere noto più o meno in questo caso, visto che si tratta per la maggior parte di formazioni sconosciute, a parte momenti di grande poi notorietà per i Farrell ad esempio, come citavo prima i Jane Addiction, qualche altra formazione della scena diventò poco più che famosa, ma niente di assolutamente eclatante. E tornando sui passi insomma un periodo eccezionale appunto per il post-punk americano, soprattutto in terra californiana, ricordiamo che il California Uber Alles è legato a Yellow Biafra, a Jello anzi Biafra, e che così ha un portato storico eccezionale sia per quanto riguarda certe musiche post-punk con l'hardcore, ma anche tutto il discorso poi che partirà con l'Alternative Tentacles e con con la Subterranean, cose che tra l'altro tratterò nei prossimi mercoledì, se avete la pazienza e la voglia, insomma, di approfondire il discorso su la California post-punk. Tornando un po' dove ci eravamo lasciati la scorsa volta con Viva Los Angeles, andiamo a prendere proprio Viva Los Angeles 2, la seconda compilation italiana di Viva, compilazione curata appunto da questa rivista anarchica di grande anche spessore musicale, come attestano poi queste due bellissime compilazioni. E proprio all'Italia, un omaggio decisamente eccentrico, come sono sempre stati nella loro brevissima carriera i Drowning Pool, fanno proprio all'Italia, Italian Pop Song, immaginando così ma in maniera assolutamente arbitraria, meravigliosamente così staccata da quello che può essere minimamente un discorso di filologico, ma tantomeno anche di riferimento pur vago, ma con questo senso tra ironico e decisamente giocoso, con voci anche prese dalle strade, dedicano appunto questo pezzo all'Italia, alla Viva, etichetta e rivista musicale che appunto, e non solo quella, che faceva pubblicare questi californiani, quindi anche assai lontani in termini geografici, ma tant'è che la curiosità, la sperimentazione politica e anche appunto culturale, controculturale della rivista portò appunto molto lontano, anche proprio a far scoprire addirittura in Europa la scena della trance music appunto californiana, legata fine anni 70 fino alla fine degli anni 80. Questo è stato un po' il decennio della trance music, anche oltre che varie attitudini e varie personalità che si sono avvicendate, è stata anche piuttosto lunga, quindi c'è questa anche sorta di dilatazione che porta appunto come dire, a disperdere un po' quello che è stato il filo lieve e però anche piuttosto profondo della trance music californiana, filo che ripercorriamo da queste parti perlomeno con grande piacere. Drowning Pool è la loro idea di Italia, poi Party Cloudy, dopo poi vi spiegherò anche chi sono questi piccoli geni della scena losangelina. Presto. Venite a spasso con noi. Beh, come la trance music californiana è da momento anche decisamente rock, che abbiamo ascoltato anche la scorsa volta come prima trasmissione dedicata alla trance music Los Angelina, beh, anche momenti assoluti di culto legati al fenomeno che poi forse è diventato tale nei tardi, insomma, tardi anni zero, cioè tutto quel minimal synth wave che appunto in Party Cloudy ha avuto una particolare filiazione dentro le trance music. Se con le trance music californiane andiamo dentro suoni riverberati di chitarre che vanno a costruire droni anche piuttosto rumoristi, oppure momenti invece come sentiremo stasera di grande atmosfera quasi eterei, o momenti rockisti piuttosto pestati, però sempre insomma con questa chiave assoluta di una forte ipnoicità, di un forte anche senso dell'oscuro, però è un oscuro chiaramente denominato sotto un sole californiano, sotto un deserto, e quindi oppure dentro una Los Angeles iperilluminata, nello stesso tempo anche piuttosto scura. Pensiamo a Mulholland Drive di David Lynch, appunto è la stessa strada che insomma ha ispirato più di qualche regista noir, quindi una California che insomma è una Los Angeles in particolar modo, che vive di tanti aspetti, una trance music che si fa anche minimal synth wave. Party Cloudy è uno dei grandi fenomeni di culto, dischi che quei pochi lavori che hanno fatto valgono veramente una follia, e quindi se riuscite insomma a trovarli chiaramente fateli vostri, soprattutto insomma per un discorso qualitativo. E infatti andiamo poi a prendere, oltre che Party Cloudy, e poi tra l'altro abbiamo aperto proprio con Drowning Pool, altri folli tra synth e diavolerie rockiste e wave, addirittura e passi legati alla body music, di tutto di più con Drowning Pool, droni, e con Party Cloudy invece che abbiamo ascoltato sempre da Viva Los Angeles 2, e ci spostiamo verso appunto quella denominazione, quel filo forse più sottile del synth, dell'elettronica, così quasi una sorta di trasparenza musicale che però ci porta anche appunto a un linguaggio opalescente da cogliere, come d'altronde quel disco meraviglioso che è Excess Verbiage, metà anni 80, raccolta per Party Cloudy dei lavori, buona parte dei lavori fatti fino a quel momento, e momenti veramente eccezionali legati a un suono che dal synth punk, dalla minimal wave, che ora insomma è chiamata così, all'epoca si chiamava cold wave, sta per diventare qualcos'altro, con tanto anche di immaginazione sonore, di ponti verso un futuro che non era poi neanche tanto lontano da Party Cloudy, anche in termini temporali. Nei primi anni 90 infatti esploderanno le elettroniche minimali, glitch e isolazioniste, quindi in un certo qual modo Party Cloudy come influenza sicuramente c'entrano, e soprattutto c'entrano con tutto il grande ritorno che c'è stato legato alle musiche per synth di questi ultimi anni. Comunque ce l'andiamo appunto ad ascoltare con qualche traccia da Excess Verbiage, questo splendido progetto appunto Party Cloudy, continuando insomma questa strada verso la trance music Los Angelina. Thank you. house within a house, rooms of joy in a room of sadness, by the chimney, warm, but farther out, cool, the light shines down to disappear, the darkness rises, glows of red and black, laughing in silence, streamers of blood in the party of death, with corpses dancing in a dream. Dancing. Dancing. Dancing. Dancing. Dancing. Dancing. Thank you. post-atomica, potremmo dire, quella di Party Cloudy, e che tra l'altro ironizzano anche così con il loro nome, la loro ragione sociale. In effetti è un disco excess verbiage veramente trasversale, si coglie veramente una sorta di altrove quando poi si cerca di acchiapparlo a livello di contesto sonoro, si perde, come dire, dentro veramente migliaia di riferimenti tra suono carpenteriano, chiaramente derivato da John Carpenter, a momenti residenziani, a momenti anche di certa punk legato al synth, quindi quello che accennavamo prima. I primi sussulti di Suicide per quanto riguarda New York, con loro insomma si è creato quello splendido, quella incredibile insomma parabola del punk sintetico, ma potremmo anche citare gruppi californiani come ad esempio gli Screamers, punk synth, anche forse più dei Suicide, che è comunque un gruppo poi per molti versi legati anche alla guardia. In California il punk fu piuttosto diretto, piuttosto arrabbiato rispetto a quello newyorkese. Fa un po' specie questa cosa, perché magari si pensa che è città più contraddittoria New York. In realtà poi anche dentro i grandi così locali del grandi, si fa per dire, insomma, in realtà erano piuttosto piccoli newyorkesi, c'era sempre una certa intelligenza, se non il termine non ci portasse insomma a definirla insomma anche come cosa fine a se stessa, un'intelligenza potremmo dire avanguardistica, ecco, per meglio definire insomma quel suono del CBGB anche newyorkese, comunque la rabbia, come dire, veniva sempre portata poi a una ricodificazione, quindi anche un momento insomma quasi così intermedio, riflessivo, intellettuale, se pensiamo anche al gruppo per antonomasia punk newyorkese, Ramones, però pensiamo insomma al loro immaginario cartoonist, cioè non possiamo non insomma pensare anche in questo caso a una sorta di intellettualizzazione, forse involontaria, anche forse insomma respirata dentro la downtown newyorkese. E invece i californiani piuttosto arrabbiati, anche qua quasi recuperati in estremi, se pensiamo a formazioni che sono diventate storiche come Screamers, ma ci sono voluti veramente decenni, prima soltanto per culti piccolissimi, con questi momenti di rabbiosità che portarono direttamente all'hardcore, però con una strumentazione ridotta all'osso, voce e synth, quindi anche proprio veramente minimal, ma minimal nel senso anche brutale della minimal synth punk, insomma, poi i termini qua si potrebbero anche, come dire, incartare tra di loro e trovare anche forme contraddittorie, come d'altronde poi molti dei recuperi di questi ultimi anni. Ma se siamo entrati dentro territorio, insomma, piuttosto scabroso, trasversale, con Party Cloud, continuiamo su una sonorità che è tanto allusiva e quanto comunque fondata su un rumore di fondo, nel vero senso della parola, anche piuttosto così sottolineato musicalmente. Andiamo a trovare Repetition, con questa strana aurea rumorista, questo drone sospeso e quasi interposto tra cacofonie e momenti assolutamente eteri, e poi dopo ci continueremo, insomma, come dire, a cullare, meno un letto però di spine è un letto di spine che comunque porta a una sorta di trance, con altri progetti ancora più sconosciuti come Point of Friction, Ambene, Didi Dobson, tutti del più o meno giro Los Angeles Mantra, voluto fortemente da Produs, che sentiremo poco più avanti, insomma, di 451. Per il momento, appunto, godetevi, se così si può dire, Point of Friction, Ambene e Didi Dobson.

come sentire i Throbbing Gristle dentro un remix di, dei Chrome, magari altra storica formazione californiana di quel momento assolutamente magico che fu il post-punk di quella zona, non soltanto insomma il post-punk californiano è stato importante, magico musicalmente, ma anche altri periodi sicuramente, ma appunto trattando questa California di Uber Alles, queste due trasmissioni 451 e qua nelle onde di Radio Città Fujiko, e quindi trattando la trance di trance music di Los Angeles, si va a impattare, come dire, a un suono che è un'iperbole di molte cose, e in questo caso insomma una sorta di veramente iperbole industrial, però filtrato attraverso un concetto anche assai astratto, questi echi di rumoreggiamenti, di tamboreggiamenti